io senza te sono neve nel deserto. Ancora tienimi con te, tu mi dai la forza per vivere come pioggia attraverso l'estate. Io senza te non avevo niente, non credevo in niente. Tu mi dai la forza per crescere come pioggia attraverso l'estate. E già in quei giorni c'eri tu, nei miei pensieri c'eri tu. Sembra impossibile. Ma già da ieri c'eri tu, nei miei silenzi c'eri tu, sembra impossibile. Anche se eri dietro a un muro, anche se eri solo a un paio.